Senti, ho dimenticato di dirti una cosa. Oh! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Baby, let me be your love and teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Allora ragazzi, cominciamo col dire una cosa, caro Parenzo, tutta l'Italia incredibilmente è presa dall'uccisione, dalla morte, anzi non uccisione, perché quando diciamo uccisione già diciamo che è stata uccisa, è stata assassinata, dell'orsa, l'orsa Danica, l'orsa Danica. Un po' è così. No, un po' è così, calma. Non so, cominciamo col dire una cosa. Primo, è morto un animale, non un essere umano, è morto un animale. Dunque, è molto diverso, non è che è morto. No, perché qui sembra che ci sia un'emozione simile, anzi maggiore rispetto alla morte di quel ragazzo di Napoli, Poi non è che si esulta, ma alla fine di questo si tratta, cioè si tratta di un orso. Muoiono migliaia di animali ogni giorno, perché ce li mangiamo, perché muoiono, eccetera. Migliaia e migliaia di animali in Italia, li strozziamo, li giustiziamo, eccetera, e la gente se ne fotte. L'orsa, c'è l'emozione generale. Allora, il governatore, che è il presidente della provincia, il governatore del Trentino, dice che era diventata pericolosa, sentiamo. Ieri sera si sono verificate le condizioni per procedere alla cattura di Danica, che sono condizioni che sono legate alla localizzazione favorevole, a comportamenti pericolosi assunti dall'orsa anche in questi ultimi giorni in maniera ripetuta e alla presenza dei cuccioli. La cosa incredibile sono i politici italiani tutti indignati, tweet, eccetera, eccetera. Anche i leghisti, io ricordo, caro Parenzo, che i leghisti in Trentino volevano fare, non so se poi l'abbiano fatto sul serio, ma proprio in Trentino volevano fare una specie di fiera per mangiare la carne di orso che veniva dalla Slovenia. L'amico Fugatti. L'amico Fugatti, ma tu che ne sai? Oh, la signora Colò, epurata da Rai 3, mandata via da Rai 3, che dice: sono indignata per Danica, è stata uccisa una mamma, tutti a casa, mamma mia. Sono veramente indignata e senza parole. Questa notte è stata uccisa Danica, una mamma accusata di aver fatto una cosa terribile, di aver tentato di proteggere i propri piccoli. Vi dico la verità, mi sono venute le lacrime agli occhi, una rabbia profonda è nata nel mio cuore. Tutti a casa, se ne devono andare tutti a casa, coloro che hanno preso questa decisione, coloro che hanno deciso di scegliere di narcotizzare un animale senza sapere come si fa. Ma tutti a casa chi? Si sono indignati tutti, Frattini, Romani, Gasparri, Salvini, la sinistra, la destra, il centro, la Lega, vergogna, eccetera, eccetera. La Lega Nord Trentina facevano i banchetti a base di carne d'orso, i banchetti. Per me va benissimo, io non mi sono mai indignato. Chi se ne frega, vogliono mangiare la carne d'orso? La portano dalla Slovenia? Va benissimo. Però adesso non è che potete fare, no, potete fare il piagnisteo sulla questione dell'orso. Vabbè, c'è un tizio che è stato, tutto nasce dall'aggressione che ha subito un tizio, un boscaiolo, un cacciatore di funghi, un tale Gabriele Maturi, che abbiamo raggiunto telefonicamente, e dice che viene minacciato da un mese, perché poi la questione è incredibile, che ci sono degli animalisti mattoidi, pazzi, che minacciano questo qua, cioè minacciano questo che è stato aggredito dall'orso. Poi lasciamo perdere come è finito, si poteva evitare, non si poteva evitare, eccetera, eccetera. Ricordo sempre che è morto un animale, non è morto un essere umano, è morto un animale, un orso. Adesso mi diranno: vergogna, fai schifo, gli animali sono meglio degli uomini in alcuni casi. È morto un animale, dunque calma, domani voltiamo pagina. Muoiono migliaia di animali ogni giorno. Questo signore Maturi dice che lo minacciano da un mese. Senti. Quello che è successo è un mese che mi minacciano, che mi rompono le scatole, che me ne dicono di ogni. Quindi sinceramente sono moralmente a terra, oltre che sono ancora lì un po' tribolare con le ferite. Poi dice: per quello che ho visto, per quello che ho subito, gli umani sono peggio dell'orso. Proprio tranquillo non sono. Peggio dell'incontro con l'orso potrebbe essere. Sì, la parte più bella è stato l'incontro con l'orso di questa vicenda. Perché gli umani sono peggio, dice. Sì. La voce che avete sentito, oltre a quella di Gabriele Maturi, è di Riccardo Poli, caro Parenzo. Te ne sei accorto che l'ha raggiunto per telefono? Sì, perfetto, mi pare anche un'ottima intervista, perfetto. Adesso subito a leccare il culo. Senti quest'altra cosa, mai detto abbattetelo, mai detto abbattetelo. Ma dove sei? Scusa, dove sei tu? Non ho capito, dove sei? Sono in movimento. Ah, sei in movimento, benissimo. Sentiamo un altro pezzo di questo boscaiolo, che diavolo è questo, raccoglie i funghi, che fa? Si sente più tranquillo anche a girare per Pinzolo adesso? No, non cambia niente, non. Anche perché io non ho mai detto che doveva essere abbattuto. Cosa mi fa incazzare oggi nella politica? La vicenda dell'Emilia Romagna. Perché mi fa incazzare come una bestia? Per un motivo molto molto semplice. Allora, ti ricorderai, Parenzo, che i consiglieri regionali del Veneto, del Piemonte, della Lombardia sono stati massacrati dalla sinistra italiana, in particolare dal partito del Lazio, sono stati massacrati dal Partito Democratico, anche per 100 euro. Cota è stato messo sul patibolo per la questione delle mutande verdi, che saranno costate, non mi ricordo quanto era, 25, 30, 40 euro, non mi ricordo. 25 erano lì, il problema era il cattivo gusto del boxer verde anche. No, ma lascia perdere adesso il cattivo gusto del boxer verde, però la cosa... Sì. No, però la cosa, sì, ma la cosa fondamentale è che sono stati messi in croce tutti per pochi euro. Adesso cosa succede? Questi del Partito Democratico, che hanno massacrato quelli del centrodestra, anche giustamente in alcuni casi, in Lombardia, in Veneto, in Piemonte, per pochi euro, dicono: vabbè, ma che cos'è un avviso di garanzia per 4.000 euro, per 5.000 euro di spese contestate da parte dei magistrati Arrighetti e a Bonaccini? Ma che cosa vuoi che siano? Per esempio Gentiloni dice: beh, è una barbarie se uno si deve dimettere per un avviso di garanzia. Ma come, nel Partito Democratico avete fatto un culo così a questi altri? Gli avete fatto un culo così anche per 50 euro? Venivano additati dalla stampa come fossero dei mostri. Adesso invece, siccome i magistrati accusano Bonaccini e Arrighetti, che secondo me non si devono dimettere, peraltro non devono rinunciare alla corsa, adesso invece tutto passa in cavalleria. Sì, ma in fondo sono onesti. Ma va. Attenzione, perché non c'è nessun obbligo dal punto di vista giuridico, e se si teorizzasse questo obbligo si teorizzerebbe una barbarie di dimettersi dai propri incarichi nel momento in cui si riceve un'informazione di Gasperino. Bonaccini, che rimane candidato, dice: c'erano dei rimborsi chilometrici, pranzi e cene, cioè esattamente come moltissimi consiglieri regionali del centrodestra nel passato. Mi candido lo stesso. Ci sono un po' di rimborsi chilometrici e un po' di pranzi, cene che erano tutti inerenti all'attività amministrativa. Ero sereno prima, sono sereno ancora di più oggi. Mi candido alle primarie per la presidenza del primario centrosinistra, per la presidenza Regione Emilia Romagna. Beh, ragazzi, però adesso non sarà stato Bonaccini, non sarà stato Gentiloni, questi del PD volevano le dimissioni subito di quegli altri, subito, Veneto, Lombardia, Piemonte, subito. Siete proprio delle bestie. Mauro, come stai? Sto bene. Allora, che dici? Sei indignato pure tu per l'Orsa? Intanto, dimmi, non, che c'è? Non deve dire è morto solo un animale, perché partendo da questo principio qui, i tedeschi bruciarono i libri, avevano bruciato solo un libro, ma poi bruciarono la gente. Quindi, vabbè. È il principio, non sono riusciti a risolvere il problema, l'hanno fatto fuori. Questo non è intanto il peso dell'orso, che ce ne sono tanti, è l'esempio. Però scusami, tu dai per scontato. Hanno ottenuto quello che volevano, perché invece che educare, quel tizio lì se l'è andato a cercare nel bosco. Quindi nelle scuole, visto che i genitori non sanno distinguere un albero da un'automobile oggi, i genitori di oggi, sì, bisogna mandare nelle scuole contadini, artigiani, le guide alpine, i cacciatori, ma non a insegnare a uccidere animali, a insegnare come ci si comporta nel bosco. Però scusami Mauro, tu dai per scontato, a parte che hai detto che il cacciatore di funghi se l'è andato a cercare. Perché è stato lì a spiare, non ve l'ha detto, è stato lì a spiare l'orsa coi piccoli. Vabbè, ho capito, ma non è che spiare l'orsa coi piccoli sia un reato, scusami Mauro. Ma chi l'ha detto che è un reato? Ho detto che è un reato. No, tu dici che hai istigato l'orsa a reagire in quel modo. No, ma se lui era stato educato a sapere che in quel periodo l'orsa ai piccoli non stava lì a fare la fisarmonica tra un albero e l'altro. Cioè tu dici che si è messo là a sbirciare, eccetera. Ma questo... comunque, sì, lui si è messo a sbirciare, ma anche se non avesse sbirciato, educare che in certi periodi dell'anno qualsiasi mamma ha dei piccoli, anche la chioccia si difende. Però scusa, tu dai per scontato. Sì, tra dai... l'altro, sì, dimmi. In Trentino hanno speso un sacco di soldi per introdurlo d'orso per poi farlo fuori. Però scusa, tu dai per scontato che primo che l'hanno fatto fuori, cioè c'è stato una specie di omicidio. No, però mi chiedo, come mai esperti veterinari, sparatori di siringhe narcotizzanti hanno sbagliato dose? Me se lo chiede lei? Ah, no, però scusami Mauro, innanzitutto diamoci del tu, però tu pensi davvero che l'abbiano fatto apposta? No! Però, come no? Senti Cruciani, non voglio prendermi denunce perché non ho le prove. Ti viene il sospetto, ti viene il sospetto. Avevano detto di togliere di mezzo l'orso e l'hanno tolto di mezzo, questo so. Però scusa, se l'animale, come dice il presidente della regione, è fuori controllo, cioè... Ma chi l'ha detto? Ma è lui fuori controllo? Gli animali sono a casa sua, la volete capire o no? Ho capito, ma... la gente fuori controllo ieri e sono stati aggrediti 4 carabinieri a colpi di macete, allora facciamo fuori quel tizio. Ma scusami, nessuno però... è fuori controllo, che fuori controllo? Gli animali hanno più controllo di noi. Ho capito, se però... metta bene in testa, il presidente chi per lui? Però sembra che quell'animale fosse pericoloso, lo ha detto chi pure lui. Chi l'ha detto? Lo dice, chi l'ha detto? Ho capito. Dobbiamo chiedere a Noè che se lo metta sull'arca. Chi l'ha detto che era pericoloso? È il presidente della regione Trentino. Ma che ne sa lui? Cioè, lo stai dipingendo come un cretino in pratica. No, uno che ignora i comportamenti animali, no, come un cretino, non mi puoi far dire che ho detto cretino. No, ma io ho detto che ti voglio far dire che hai detto cretino. Chi vuole educazione? Gli animali sono a casa loro. Ho capito. Sa perché il presidente ha il favore di contadini? Perché quando li mangia una vacca ci vogliono 10 anni perché gliela risarciscono in questo paese sfasciato. Ma comunque domani gli danno 2 mucche il contadino. Comunque va nella stalla a mangiare le pecore, cioè comunque non era una situazione di normalità. C'è tutto in Canada, allora in America quando sono andato a arrampicare ci sfasciavano i bagagliai delle auto lì al Camp 4 in Yosemite, allora facciamo fuori gli orsi. Ma gli uomini sono peggio degli animali in alcuni casi? Non diciamo conclusioni fesserie. Occorre educare, andare nel bosco. Senti, ma chi ha... Non sanno, ma sì. Manca l'educatore, tu dici... Su questo, eh? Sì, vabbè, ha ragione, sì, ma io sono sempre convinto che alla fine si tratta della morte di un animale, ma quanti animali muoiono? Ma che discorsi sono? Ma quanti animali muoiono ogni giorno? Ma che discorsi sono? Anche i cani fate la campagna contro l'abbandono dei cani, anche quello sono un animale. Ma che discorsi, ma quello che c'entra, da cretino, Cruciani. No, non è così, non è così. Questa... Ma come puoi, è l'esempio, l'etica del comportamento, gli uomini quando non allora, risolvono fanno fuori. Scusami. È bella l'etica. Ma, non, ah, per il gallo, non perché è morto, tu, sono un animale. Tu dai per scontato, state dando per scontato che hanno fatto fuori questo qua deliberatamente. No. Mentre loro dicono che è un incidente, loro dicono che è un incidente. Non mi fai, no, mi chiedo, io non ho detto questo. Beh, e non me lo farai, cioè, dire, ma hai per detto, una denuncia. No, hai detto l'hanno fatto fuori, l'hai detto tu, l'hanno fatto fuori. Nel senso che non è più vivo. Vabbè, o sei un idiota. No, ma ho capito. Ma come mai ha sbagliato la dose della siringa quando l'hanno già addormentato 2 o 3 volte? Io non lo so perché ha sbagliato la dose. Loro dicono che è morto dopo, non è sopravvissuto all'anestetico, punto. È chiaro, ma perché? E prima era, non è mica la prima volta che l'addormentano. Parenzo, che fai? Che stai facendo? Ma no, dico, è oggettivo quello che dice Corona. Io, se vuoi, ti dico di più. Cioè, è chiaro che se l'uomo calcola la percentuale di narcotizzante che ci deve essere e sbaglia, e dice, mi dispiace, come il medico, no? Dice, guarda, ti ho iniettato questo sonnifero, però forse te l'ho iniettato un po' troppo. E dice, l'hai ucciso. No, ho sbagliato. Il vabbè, ma che dobbiamo fare, Mauro? Che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Ma la natura va rispettata. Vabbè, ho capito. Stai dicendo le stesse cose di Corona. Mauro, voglio capire una cosa. Che dobbiamo fare con questo che ha sparato l'anestetico? Che niente, niente, ormai si chiude lì. Perché in ma effetti... processato per omicidio? Che No, che ne però so? Cattivo, il Trentino, che è una patria che amo, dove sono anche nato, ha fatto una figuraccia stavolta. Ha fatto una pessima figura, anche per quello bisognava risolvere il problema in altro modo. In un altro modo quale? Andare dall'Orsa a dire, prego signora Orsa, si accomodi, torni indietro, sì, cerchi Cruciani, di fare... Dai, su! Cruciani, io capisco le tue provocazioni e l'ossatura che sta in piedi la zanzara, però non devi dire fesserie, perché, no, perché fai fesserie? Figura, ma gli animali hanno diritto come te a stare al mondo, sì o no? Io, ma certo che hanno diritto allora, a stare al mondo, che vuol dire? Allora rubano le pecore, le recintano. Se quello aggredisce delle persone, che dobbiamo fare? Dobbiamo perché assistere? Aggredisce perché difende i piccoli, nessuno ti aggredisce per neanche la ma vipera. Ma quello allora, non ha fatto niente ai piccoli, allora li stava guardando. Ma anche la vipera. Anche la vipera, no? Quanti sono stati morsi dalla vipera? Ma infatti la vipera si ammazza. Infatti la vipera non è che se uno l'ammazza nessuno dice niente, eh. Se uno ammazza una vipera nessuno dice niente. Ma tra l'altro ma tu perché è una cattiva cultura, ignoranti. Non sapete niente della natura, zero! Ma e gli animali hanno diritto come te, Cruciani, a stare al mondo! Ma tu che faresti davanti a un orso? Non ho capito. Allora, innanzitutto, prima l'orso fa rumore e quindi capisco che è l'orso e mi metto sotto vento. Come fai a metterti sotto vento? Butti per aria un po' di erba, un po' di polvere di neve se c'è la neve, ma l'orso è in letargo allora. E quindi capisci che se l'aria va in su, lì arrivi e su, allora vado in giù. L'educazione nella scuola, mandare i cacciatori, i più contadini. Ma i cacciatori che dovrebbero fare secondo te? Sono... insegnano a muoverti nel bosco in certi periodi. No, ho capito, ma che dovrebbero fare? Cioè, è legittima la caccia? Guarda, parli con un cacciatore, ex cacciatore, perché io non vado più per una scelta mia, ma non posso condannare la caccia. Qui sono morti 3.500 camosci per non aver fatto la selezione. Quindi sono... Però l'uomo ha messo questo animale nella foresta, no? Chi l'ha messo? L'uomo ha messo questo animale, ha introdotto l'orso nella foresta. Ma questo è un'altra... E poi lo fanno fuori l'animale... Questo, introducano qualcos'altro se hanno voglia di introdurre, che gli animali vanno da soli nei posti dove che dovrebbero introdurre, non ho capito. Ah, non lo so, se non hai capito sei proprio tonto. Ma non ho capito, tu stai dicendo, invece di introdurre, perché non ho capito, non va bene che li introducano nelle foreste? No, ma... l'animale deve arrivare da solo. Ah, deve arrivare da solo. Qui da noi hanno introdotto lo stambecco, che ha calciato giù il camoscio, a basse quote, ha smantellato, ha cacciato via il capriolo, hanno introdotto le marmotte. Ma il presidente che bisogna fare? Se tu pensi che sia stato una specie di assassino, che bisogna fare? Mettere sotto processo questi qua? No, cioè, non ho detto che è stata, senti Cruciani, una specie di... non cercarti rogne, non ho detto che l'hanno ucciso, ma l'ho detto che è morto, che hanno sbagliato la donna. Allora l'uomo non deve arrogarsi il diritto di introdurre qua, togliere di là, lo fa da sola. Please allow me to introduce myself, I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. tra GR, borsa e pubblicità, qui non si parla mai, questa trasmissione è massacrata. Vorrei raccontarvi una storia più leggera, vorrei raccontarvi la storia di una mia amica, una mia cara amica che si trova senza lavoro, con un figlio a cui vengono fatte solo proposte sessuali, me lo sta dicendo adesso, perché ha messo un annuncio su un giornale, 200 euro per 2 ore di sesso, per 3 ore di sesso, ed è tentata di accettare. Io sono incerto sulla risposta da dare, caro Parenzo, cioè sono incerto se dire sì, vabbè, guarda, se proprio la cosa non ti fa schifo, accetta, se proprio è necessario, oppure dirle no, ma dai, non lo fare, aspetta un attimo, prova, no? Tu che dici? Vabbè, non sai la storia, per cui te la dovrei raccontare meglio. Ma mi senti o no? Certo che ti sento, ma ti ascoltavo in doveroso silenzio. Senti, gli animalisti del Friuli Venezia Giulia, siccome non è una risposta a quello che ti ho detto, gli animalisti del Friuli Venezia Giulia mi stanno additando ovviamente come il mostro, come il mostro. Dai, per mille ragioni, mi per questa. Dai microfoni della Zanzara ci ricorda che in fondo è solo morto un animale. Mi sono beccato anche del cretino, per la gioia di altri cretini sul web, peraltro, da Mauro Corona, perché ho detto una cosa molto semplice: che l'uomo viene sempre prima dell'animale, caro Mauro. L'uomo viene sempre prima dell'animale. No, chi l'ha detto? Ma lo dico io perché lo penso. No, lo dico io perché dove lo penso. Ma che l'uomo significa? Quale uomo? Il feroce idiota che si massacrano nelle guerre, ammazzano bambini, tagliano teste. Cosa dici? Ma è sempre meglio l'uomo dell'animale. Ma un uomo come te no, di sicuro. Ma dai, Mauro. Ma dai, questa è pura retorica, demagogia, fasulla. Ma dai. Ma come prima l'uomo, prima ognuno al proprio posto. Ma che vuol dire ognuno al proprio posto? Quando l'uomo vuole arrivare dappertutto, anche in fondo al mare. Ma lascia perdere, questa è filosofia. Lascia. Quando c'è un animale che minaccia, quando c'è un animale che minaccia, non dico che bisogna batterlo, bisogna fermarlo, ma non volerlo. Voi mi fai finire, sì. Minaccia lì i netti che non sanno andare lì. Vabbè, ma non è che uno deve essere per forza istruito ad affrontare un orso, su, dai. Allora, quando tu traversi le stisse pedonali che ammazzano la gente, ammazziamo anche gli autisti. Ma bisogna avere cautela a muoversi sulle strade, nei posti. Ma infatti non mi pare che questo qua, che da cui è nato tutto il caso, abbia sia andato lì con i fuochi artificiali. No, scusami, il ragionamento, guarda, no, non la vuoi capire. Sei l'unica persona sul pianeta mai. No, sono l'unico. Neanche mia moglie è riuscita a farmi perdere le staffe come Cruciani. Però scusami, Mauro, io sono l'unico che non è ipocrita. Domani la gente se ne sbatterà i coglioni di questa roba qui, capito? Non è vero. I politici, ti voglio leggere i politici. I politici. Ascolta. Ti voglio leggere i politici, ti prego. Ascolta, di politica mi preoccupo, non mi occupo. Mi fanno tutti pena. Allora ti voglio dire. La Lega voleva i banchetti con la carne dell'orso. Secondo, ti chiedo un secondo. Dimmi. Non è il fatto dell'orsa che è morto un animale, è il comportamento che è un cattivo esempio, che vuol dire inettitudine. Vabbè, ma quello vedremo se ci sarà stata inettitudine. Vedremo, lo vedremo, ci sarà un'inchiesta, no? Non è che si possono ammazzare. Le inchieste italiane? Vabbè, ho capito, neanche a Ustica il Vajont ha avuto giustizia. Vanno a far giustizia nell'inchiesta sull'orsa. Mi fai ridere. Ma io non ho detto che ho capito, ma allora tu pensi che. Allora dillo esplicitamente, è stata ammazzata volontariamente. No, non me lo fai dire. Vabbè, non te lo fai dire, però lo pensi. Vai fino in fondo. Allora, se tu sai cosa che penso, perché non fai come Vanna Marchi e vai a vendere. Ma che c'entra Vanna Marchi? Sale, dai, Mauro, dai, su. Non rompere i coglioni, Cruciani. Mauro, scusa un attimo. È possibile che hanno sbagliato la dose. Ah. Allora quel veterinario lì lo si manda a zappare i campi. Il veterinario deve andare a zappare i campi che ha sbagliato la dose. Può darsi pure che ci sia stata una reazione alla dose normale. Perché se la reazione tua. Se ti addormentassero te, guarda, farebbe un piacere all'Italia. Ma che cosa c'entra? Cosa c'entra questo? Cosa c'entra questo? Cioè tu preferisci l'orsa a Cruciani? Preferisci l'orsa a Cruciani? Assolutamente. Ma dai, Mauro. Assolutamente. Ma dai, io ma è una cosa. Io preferisco il canguro. Ma vai, io ti voglio bene. Ma io di fronte a Mauro Corona e all'orsa, ma io abbatto l'orsa domani mattina. No, di fronte no, è meglio abbattere Corona, e si abbatte da solo se va avanti così. Mai, è l'esempio che ha dato il Trentino, un esempio cattivo. cattivo e pagheranno, il Trentino pagherà. Ora, non pagherà per l'Orsa, non pagherà nessuno. Perché se non vedono l'ora di rivolgersi, doveva muoversi con cautela. E ha sbagliato con cautela. Scusa, l'hanno immobilizzata, l'hanno anestetizzata, ha reagito male all'anestetico ed è morsa, morta. Per carità, siamo tutti lì con le lacrime, chi più chi meno, però alla fine è morto un animale, amico mio. Perché infatti se muori tu è uguale. E perché le precedenti anestetico lo ha retto? Perché? E vabbè, ma che ne sappiamo noi delle reazioni di un orso all'anestetico? Scusami Mauro, che ne possiamo sapere? Ma allora infiliamo dentro siringhe, guarda, io sono lo sai su che cosa sono d'accordo con te. Se l'hanno fatto apposta, se è tutto un trucco per eliminarla e togliersi un problema, allora sì, in galera. Allora sì, in galera, dico in galera, perché non si possono ammazzare gli animali a freddo, in galera, a meno che non minaccino chiaramente, evidentemente qualcuno, no, è quello evidente. Però scusami un attimo, che c'è, Parenzo, dimmi. Da un punto di vista, come dire, anche delle cose, no? L'orsa ha fatto molti meno danni delle cazzate che tu hai partorito in 4 anni. Non dire stupidaggini, questa fa ironia assurda, ma fa ironie assurde, ma smettila, li fai anche tu, perché partecipi anche tu a questa trasmissione, buffone, buffone. Io ti contrasto, ipocrita. I danni che fanno le tue parole, ipocrita, ma quali danni? Dico quello che penso, ipocriti. Orsa che girava per dei boschi, ma ipocriti. Tu con le tue parole alle volte tagli molto di più. Vabbè, è arrivato il fenomeno qua, è arrivato il moderato. Almeno Corona ha il coraggio di dire quello che pensa, non te che rinneghi quello che fai. Mi fai incazzare perché ti voglio dire una cosa che forse non ti dovevi dire, ma te la dico. Guarda, mi hanno rivelato ieri, e lo dico, ti dico anche chi, l'avvocato Anselmo, che è l'avvocato della famiglia Biforco, ed è stato anche l'avvocato Vai. Che tu con le tue parole un giorno hai fatto piangere la sorella di Cucchi. Allora è evidente, la sorella di Cucchi, ho fatto piangere io con le mie parole la sorella di Cucchi, perché che cosa ho detto di strano? Io su Cucchi non ho detto nulla di strano, avrò criticato qualche frase di Ilaria Cucchi, ascoltava, siccome tu dici, ma chi se ne frega poi, ma chi se ne frega, ho fatto piangere, ma cos'è, qual è il punto? Allora le parole tue feriscono molto di più dell'orsa, vabbè, hai capito? Vabbè. L'orsa non ha fatto un cazzo, è pazzo, non ha fatto niente l'orsa. Mauro è pazzo definitivamente, dai, su. Scusa, i leghisti, caro Mauro, quelli che volevano pasteggiare a carne di orso e adesso invece si indignano, come li giudichi? Questo è il classico dell'Italia, cavalcare le situazioni per avere voti, uno si schiera, ma se no, tu lo sai che se ti schieri con i cacciatori hai 1,5 milioni di voti. Ho capito, quindi, ma pure tu hai detto che i cacciatori alla fine non è che sono così dei criminali. No, infatti, ma volevo dire che è tutta una questione. Anche Beppe Grillo dice giustizia per Danizza, chi è la bestia, vogliamo giustizia. Alcuni vogliono fare le interrogazioni in Parlamento. C'è la politica, salta sopra questa storia dell'orsa. C'è un'indignazione. Tu sei più indignato, Corona, sei più indignato per la storia dell'orsa che per la storia del ragazzo di Napoli. Di la verità. No, ehi, non ti permetto, perché so dove lavori. E beh, che vuol dire? Calci in culo. Ma che il calci ragazzo in culo di Napoli, poverino, non dire fesserie, no, con me. Secondo me sei più indignato per l'orso No, abbiamo parlato dell'orsa. Se parliamo del ragazzino di Napoli, poverino, che mi fa piangere il cuore, ma non paragonare. Abbiamo parlato dell'orsa. Non sono più indignato del ragazzo di Napoli, ci mancherebbe. Un medico mi scrive, mi impiccherei davvero. Un medico mi scrive: la povera orsa è stata ammazzata. Ha ragione Mauro, non so se posso fare il nome, comunque non lo dico. Ha ragione Mauro, non si muore di sedazione. È un mammifero, per cui valgono le regole di ogni mammifero, umani compresi. Capito? Questo dice un medico molto conosciuto. Non dico niente. Vabbè, vogliamo chiamare una persona. Vabbè, Mauro, grazie. Ti abbraccio. Sì, buona vita a voi e state attenti che non vi addormentino anche voi. Tu la mangeresti la carne dell'orso? No, io, guarda... Che? Ho letto il libro di Primo Levi e diceva abbiamo mangiato la carne dell'orso. Non la mangerei perché da 5 mesi non mangio più carne. Ho scelto di non mangiare più carne. Ma se vai... Ho mangiato cervi, mangiato camosci. Non mangerei la carne dell'orso. Lo sai che vengono ammazzati questi qua, no? Cervi, mosci, tutto quello che tu hai mangiato, vengono accoppati tutti, sì, lo dico così per dirlo. Ma allora secondo te, ecco perché mi schiero un pochino a favore della caccia, È giusto che 3.500 camusci siano morti di rogna per non ammazzarne qualcuno? Spiegami. Non ho capito, scusami. Quassù sono morti 3.500 camusci di malattia, sì, perché erano troppi. Allora ne preleviamo qualcuno o no? E sì, quando sì, ne preleviamo qualcuno... Però vorrei farti notare che tutta la carne che tu hai mangiato è frutto di uccisione di camusci, carne di... E tu di... cosa hai mangiato? Ma io infatti allora, mica dico che non bisogna ammazzarli. Io. Ascoltami, vegetariano del cazzo. No, io non sono vegetariano del cazzo, ecco. Non sono proprio vegetariano. Allora, tu sei come quelli che fanno i digiuni e non crepano mai di fame. Ma io non faccio affatto i digiuni, scusa, perché allora, i vegetariani sono dei coglioni secondo te? I vegetariani sono dei coglioni? Se vogliamo un'etica, non mangiamo carne, allora neanche insalata, perché i giapponesi hanno provato che se te strappi un piede di insalata, coi sensori vedi che vibrano. Certo, allora, crepate tutti di fame, etici del cazzo! Ma i vegetariani sono dei coglioni? No, io sono diventato, ad esempio. Ah, ecco. Ma non è che siano dei coglioni, è che bisogna, gli estremismi fanno sempre male. Qui si tratta, la storia dell'orsa, non è che hanno dimostrato... Di non saper gestire un cattivo, un cattivo esempio. Portano lì un'orsa, poi gli dà fastidio e la tirano via. Abbraccio tutti anch'io. Neanche mia moglie è riuscita a farmi perdere le staffe come Cruciani. Buonasera Massimo Ferrero, neo presidente della Sampdoria. Beh, buonasera, forza Sampdoria, sì, sempre. Certo, certo. Dopo la Sampdoria, sì, niente. Niente, beh certo. Beh, io amo la città di Sampdoria. Non è una città. Ho comprato casa proprio nel centro, sì, di Sampdoria. No, la città dove parlano un po' così, minchia. Perché ci devo fare i soldi, casa. Non ce li faccio i soldi. Allora, ci sono due geni qui, l'abbiamo già detto ieri. Uno è Crozza e l'altro però è il presidente della Sampdoria Ferrero, perché a parte che quando uno viene imitato da Crozza si va nell'Olimpo, praticamente succede la stessa cosa con Razzi, vedrete che cosa succederà a Ferrero, detto il Viperetta, presidente della Sampdoria nonché produttore televisivo. La novità di oggi riguardo Ferrero è questa. Ragazzi, andate su internet, andate sul web, guardate che cosa straordinaria che ha fatto. Siccome non ha lo sponsor sulla maglietta, ha praticamente pubblicizzato uno dei film che produce, Sin City, dal 2 ottobre al cinema. Una scritta enorme qua davanti, sopra la banda, no? Le strisce della maglietta della Sampdoria. E in più, ovviamente, ha presentato questa maglietta non con i soliti giocatori, eccetera, ma con quattro ragazze meravigliose. Cioè, ha scelto quattro ragazze anche molto giovani, l'uomo è un intenditore, e ha fatto questa presentazione delle magliette con quattro gnoccone e con il suo film. È un genio assoluto, però è stato pizzicato da una radio romana nei giorni scorsi, che gli ha fatto uno scherzo che si riferisce alla solita cosa, quando andò a fare l'offerta in televisione, una cosa scherzosa, alla D'Amico, di fare un film, eccetera eccetera. Lo hanno chiamato fingendosi un giornalista di Sky, sentite. Pronto? Sì? Sì? Buongiorno, il dottor Ferrero, per cortesia? In questo momento è occupato in una riunione, che devo dire? Ah, sono Sky. Francetti di Sky, era una cosa un po' urgente. Un attimo solo che sento se si può liberare. Grazie, un attimo, molto gentile, dalla direzione generale di Milano, grazie. D'accordo. Sì. Presidente, buongiorno. Sì. Buongiorno, Francetti di Sky Milano. Dica. Le volevo dire una cosa gentilmente. Ci siamo riuniti qua, abbiamo fatto la riunione post trasmissione. Lei è stato gentilissimo a venire come al solito, simpatico. Però le chiediamo se alcuni siparietti possono essere eliminati, perché noi, essendo una trasmissione di servizio e tutto, si sono offesi specialmente da Palermo per la limitazione, che hanno detto che non era bella. Il gelo in studio, insomma, era palese. Quindi volevamo sapere se era possibile fare delle interviste un po' più istituzionali, presidente. Sì, non c'è problema. Va bene, perché... Non capisco qual è l'offesa, sono stato soltanto fatto solo una battuta. Presidente, sta bene? No. Vabbè, inizia così. La parte più bella, devo dire la verità, è geniale questo che ha chiamato Ferrero, è quando i due a un certo punto si lasciano, si stanno per lasciare, cioè la telefonata sta per via, dice vabbè, Ferrero fa, lasciami il numero di telefono così quando siamo a Milano. Sentite. Adesso quando venga a Milano mi dà il suo numero? Assolutamente sì. 335 841 841 77 7 inizi 77 7 inizi. Scusi, 841 allora, 77 allora 335 844 sì. 77 sì. Inizi 2 sì. Scusi, ma io non capisco un caso assurdo. 844 77. Presidente? 22? No, presidente, allora 335 l'ho fatto 8, me lo ripeta. 8, 4, 4, 4 7, 7, 7, 7, inizi 2. Gran cazzo. Mi mandate un messaggino che non sento. Assolutamente sì. Però... guardi, le faccio uno squillo muto. Vai. Va bene? Grazie. Così quando vengo a Milano la chiamo. E ci andiamo a prendere e andiamo a mangiare insieme. Bravo. Geni assoluti, geni assoluti. Oh, l'amico Don Fanzaga se la canta e se la suona, si crogiola, si gode come un matto. Gode, scusi Don Fanzaga, lei non conosce questa cosa, non conosce la parola godimento, signor Don Fanzaga, Don Livio Fanzaga, detto con grande rispetto, detto con grande rispetto. Votate cuffiedoro.it, la Zanzara e il sottoscritto. Il miglior show radiofonico e il miglior conduttore. Votate, c'è tempo fino a lunedì, ma votate, consolidate il nostro primato. Adesso, dopo una settimana, perché noi abbiamo cominciato a partecipare giovedì scorso, dopo una settimana noi siamo primi sia per quanto riguarda la radio più ascoltata, sia anche per quanto riguarda l'autore più ascoltato, ma siamo primi nel senso che gli altri dietro sono scomparsi, insomma. È stata per le radio che stanno dietro, è stata una stangata che se la ricorderanno finché campano. Ma che ci ricorderemo che avete mobilitato pure, per carità, legittimo, bravissimi anche i catechisti, probabilmente anche quelli delle chiese avete mobilitato, dai, su. Lorenzo, dove sei? Però è lodevole perché ci crede e lotta anche lui. Ma come lotta noi, come un leone, per carità. No, dove... quindi voglio dire, per lui è quasi una crociata, vorrei dire, no? Adesso per usare un termine, no? Gianpietro da Monza, buonasera. Buonasera Cruciani, grazie. Vai, dimmi. Senta Cruciani, quando lei era piccolino le ha mai regalato un orsacchiotto? Un orsacchiotto, un peluche, piccolo. Dice, un peluche. Un peluche. Beh, sì, probabilmente sì. Allora perché gliel'hanno regalato secondo lei? Perché è un animale. Perché era un bambino, ma io non sto dicendo che è antipatico, io vorrei vivi tutti gli orsi della terra. Sono contro, non ho mai mangiato la carne d'orso, sono contro l'uccisione degli animali. Cruciani, ma lo vuole capire o no questa cosa qua? Ma Cruciani, e allora chi è la colpa di questa cosa? Ma io non lo so di chi è la colpa, so solo che già alcuni stanno dando la colpa. Dillo. Allora, dei cretini che hanno preso un orso per ripopolare una zona dove l'orso non è tollerato e ce l'hanno messo. In questo modo l'hanno condannato a morte. Allora, Gianpietro, lei sta criticando le scelte a monte di questa vicenda qua. No, io sto criticando i trentini, sai perché? Perché nessuno, perché io stavo con l'orsa una settimana fa, 10 giorni fa, adesso l'orsa non c'è più. E allora? Quindi non sto a cercarmi le cause che hanno ucciso l'orsa, dico semplicemente, e condannare qualcuno, dico semplicemente che quell'orsa è stata condannata dalla gente, dai trentini, che sono uguali a quelli che mettono le esche avvelenate per far fuori i lupi, che sono stati pure quelli rimessi per ripopolare una zona. Va bene, grazie. Marco allora, da Padova, da Padova, anzi Nando da Perugia. Sì, Nando. Speriamo che stasera mi fa parlare. Io faccio parlare sempre tutti, anche troppo direi. Permetto che io sono un frustrato, come lei ama definire coloro che la seguono. No, guardi, no, dipende. Io sono frustrato per... Vai, forza tu, dai, sbrigati, dai. Ci avevo una detta con operai. Sbrigati. E la moglie mi scappa, dico io. Intanto premetto che sono d'accordo con Claudio. Innanzitutto togli l'auricolare e cerca di parlare non con il viva voce, altrimenti ti chiudo il telefono subito, capito Nando? Subito, immediatamente. Non c'ho nessun auricolare. Dunque, poi volevo dire, no? Riguardo la famosa vicenda, già la sera stessa in cui ha aperto il servizio pronunciando il cognome di quel giovane, Bifolco, sì. Bifolco, con quel tono, sì. No? Già sapevamo come la pensava. Vabbè, poi? No, già, no, Nando, lei è troppo lungo, vai. No, sono troppo lungo, tu sei un furbacchione. Ho detto che sottoscrivo quello che ha detto Claudio ieri sera. E poi gli dico, guardi che i napoletani ci sono anche io non sono napoletano, anzi sono un ex dell'arma, ci ho fatto militare. Vabbè, Nando, ma adesso che dove è fatto il militare a Napoli? Ma cosa ce ne frega a noi? Ma in via Monterosa arrivano anche lì i napoletani, non ti preoccupare. Lei è fortunato perché è diviso, quella faccia da morto che c'ha, la conoscono in pochi, sì. Ma piano piano, piano, no, piano, per fortuna non c'è un pazzo come lei che mi aspetta qua sotto con la pistola e con una spranga, amico mio. No, io non le faccio mai niente, io ascolto che cosa, 24. Che cosa si augura lei, scusi, perché quando la gente conosce la mia faccia, che cosa dovrebbero fare? No, ho detto, cosa dovrebbero fare, imbecille, cosa dovrebbero fare? Deve fare la sua conoscenza. E in che modo? In che modo? Ma quello poi sarà a discrezione di chi la incontra. Ma lei è un poveraccio. Ma lei è un poveraccio. Ma io l'ho già detto, su questo l'ho premesso, pezzo di merda, l'ho premesso. Io ho detto, sono frustrato, per l'amor di Dio. Ho detto che anche in via Monterosa arriveranno. Poi quando parla anche di sesso, tutte quelle maialate, ieri sera ha detto che c'era figliola di 9 anni. Io sì, ma perché lei non c'è. Ma non c'è vergogna, vergogna di che? Cillone, ma c'è vergogna a parlare con quei termini. Ma sei anche io ho 3 ragazzini. Sei un poveraccio, sei un miserabile. L'ho premesso. Poi? L'ho premesso. Poi aggiungi, no? Ho detto, ascolto Radio 24. Soprattutto. La parte economica, e poi sì. A volte è successo che la radio si. E come mai? E come mai? E come mai lei è così? Io mi diverto, ecco. Questo divertimento che c'ho io ce l'hanno in tanti. Sì. Quando chiama la gente che la vorrebbe ammazzare. Pensa che soddisfazioni che ha nella vita. Guarda, Parenzo, che c'è? Dimmi, Nando, stai zitto. Voglio dire una cosa. Io intanto sono arrivato al Rione Traiano, dove tra poco seguirò in diretta per Matrix la veglia per Davide. Però ti voglio raccontare questo, perché sto arrivando nel quartiere e ci sono centinaia di ragazzi, di ragazzini che stanno distribuendo delle magliette. No, questa è seria cosa, perché stanno vedendo qui davanti ai miei occhi delle magliette che hanno stampato loro con dei cuori e c'è scritto rimarrai sempre nel cuore. Aspetta che adesso vabbè, quello ragazzi, è normale, ma che notizia mi dai? Rimarrai sempre nei nostri cuori, cioè ma che cosa strana, l'intera città che si sta le magliette, vabbè, hai detto una stronzata, vabbè, ciao. Con la foto, hai raccontato una cosa banale, dai, ciao. Proprio delle bestie. Mamma mia, quando fai queste cose, Davide, sei di una. È certo che c'hanno quelle magliette là nel quartiere Traiano di Napoli. Che cosa dovrebbero avere? Le magliette con scritto siamo contenti che Davide è morto. È normale che fanno la maglietta, rimarrai sempre nei nostri cuori. Non mi pare una cosa così sorprendente, no? Non mi pare così sorprendente. Lo sai che cosa mi fa incazzare, veramente? Mi fa incazzare come una bestia? Ancora questa vicenda dei rimborsi elettorali. Perché io dico, veramente la sinistra italiana, in particolare il PD, è incredibile. Cioè, hanno massacrato i consiglieri regionali del PDL, di Forza Italia, della Lega, anche giustamente in alcuni casi, e cota per le mutande, 25 euro le mutande verdi, l'ho già detto prima ma lo voglio ribadire, e adesso invece fanno gli schizzinosi su 4.000-5.000 euro contestati a Bonaccini e a Richetti ha lasciato, deve lasciare anche Bonaccini, hanno utilizzato la clava con quelli della centrodestra nelle altre regioni, adesso lasciano pure loro, tutti quelli indagati devono lasciare. Si sta zitto, non ha parlato a Vespa di quello, Non ha parlato a Vespa di quello. Ho notato anche che il direttore del giornale, l'amico Sallusti, era come se ci fosse Berlusconi da Vespa. Stava zitto, non diceva nulla, non attaccava, perché l'ordine di scuderia d'Arcore è quello di non disturbare Renzi. È incredibile, ma è così, signori. L'ordine di scuderia. Berlusconi, questo me l'hanno rivelato in tanti, ha detto, sì, attacchiamo Renzi, ma non troppo. Cioè, voi vi rendete conto in che situazione siamo? Siamo nella situazione in cui non c'è nessuna opposizione. Certi 5 Stelle, ma Avete sentito che fanno? No, fanno le interrogazioni parlamentari sull'Orsa. Sull'Orsa fanno le interrogazioni parlamentari. Sull'Orsa. Carlo Freccero è con noi, Carlo. Buonasera a tutti. Io so che sei d'accordo con me, questo è drammatico. Totalmente. E questo è drammatico, e questo è drammatico. Questo è ma dov'è finita l'opposizione qui? Perché è una cosa pazzesca. Siamo in una sorta di anestesia totale. Vespa l'altro giorno, Renzi, era incredibile, ha parlato di cifre per dicendo che poi dovete chiedere agli altri a Padova, ha parlato di cifre a un certo punto per 25 minuti consecutivi. E cosa posso dirti io? Dimmi qualcosa, ti prego. Io sono immerso in un'altra realtà, anche perché questa realtà che tu descrivi è veramente stufato, è insopportabile, totalmente insopportabile. Quindi purtroppo è tutto un ritornello, non te ne rendi conto, cioè è come se di fronte appunto al buio che è la situazione appunto economica del paese. Sì. E il bambino sai cosa fa quando è buio, quando è colto dalla paura? Si cura canticchiando, cammina, sì. Si ferma al ritmo della sua canzone, sperduto, si mette al sicuro come può e si orienta alla meno peggio. Così fa la politica italiana. Siamo nel buio, nella crisi economica. E noi ci mettiamo così a ripetere la stessa cosa. Ecco, io dico una cosa, io la cosa che mi sarei aspettato da Renzi, magari una cosa diversa dalla tua, è però qualche cosa di rivoluzionario, o in una direzione o nell'altra. Cioè qualcosa che sfasci tutto, no. qualcosa che il grimaldello, le cose. Invece qui c'è un'amministrazione dell'esistente quasi, un'amministrazione dell'esistente, non divide su nulla. L'articolo 18 dice poi sì, forse non ne parlo, non è importante. Su ogni cosa c'è una vaghezza quasi totale. Ma la riforma della scuola, ma avete visto i capitoli della riforma, i titoli della riforma della scuola? Sono inesistenti, sono impalpabili, non c'è nulla, niente, niente. No, il problema grosso comunque è un altro. Qual è? Perché è che manca l'opposizione, cioè questo qua è drammatico, sì, cioè perché sì. Guarda che quella cosa di Farage, cioè la cosa che ha fatto veramente, il fatto che sia stato Casaleggio a diventare il leader dei 5 Stelle è stata la fine. È veramente. Stato drammatico, eh? Drammatico, stato drammatico. Cioè la fine dei 5 Casaleggio leader dei 5 Stelle che fa dormire sì, pure sì, i cani. Sì, è una cosa, e poi per di più anche va addirittura nel luogo del delitto, va a Cernobbio, sì. Dai, per favore, nel luogo del delitto, poi dopo tutto quelle dichiarazioni che tu hai fatto, ma c'è qualcosa che non va più. Attenzione, però, perché questa situazione creerà un cortocircuito televisivo, radiofonico, se in qualche modo in cui chiaramente sì. Non si potrà più parlare di politica, è finito. Ecco, però, questo è interessante, è il riflesso sulla televisione di quello che succede. Secondo te, adesso stanno per partire tutti questi talk, ma di che si parlerà? È drammatica questa cosa. Guarda, l'unica cosa che rimane ancora la casta. Io credo che la situazione di Montezemolo sarà il tema più importante di queste prossime serate. In modo tale, però è chiaro che non ancora che questa è, lo sanno, nel privato ci sono cifre pazzesche, ma ognuno è libero, cioè veramente non, cioè il vero problema qual è? È che non si trova cioè una chiave per riaprire il dibattito, è come se fossimo incantati, è come se l'usignolo mediatico che è Renzi avesse in qualche modo incantati tutti, è una cosa che è spaventevole. Io vedo però una cosa importante dai risultati, cioè, che proprio l'informazione sta perdendo punti. Questo quale mi sembra che la cosa essenziale. Ma Floris come lo vedi? Parenzo, saluta il maestro innanzitutto. Parenzo. Sì, vabbè, arrivederci. Arrivederci. Ma no, ma è così, dai. Buonanotte, no. è a Napoli per Matrix. È a Napoli per Matrix. Non si possono fare due programmi alla volta. Scusa, non si possono fare. Diglielo. Possono fare due programmi alla volta. No, non è possibile. Hai ragione, però io ero qui anche per raccontare questa cosa e raccontarla anche alla radio, a Cruciani. Ma raccontare cinismo, che? Ma che devi fare? Il cinismo di quest'uomo, caro Carlo, fa parte del personaggio, è così, lo conosciamo. Non se lo fa apposta, è così davvero ed è anche il segreto del suo successo. Dopodiché lui non può limitare il racconto che io ho provato a fare arrivando qui adesso. Ma quale racconto? Dai, zitto, ma fallo a Matrix il racconto. Zitto. Ma fallo a Matrix il racconto. Hai detto delle cose di una gravità inaudita. Ma che ho detto? Devi venire qui al Rione Traiano, dove sono io. Tu devi venire qua a dire queste cose. Che Davide è stato ammazzato anche da Napoli. È stato ammazzato anche da Napoli. Vieni qui. Certo che vengo, se mi invitano ci vado. A fare il con la polizia intorno. Con la polizia intorno ci vado. Ecco, tu devi capire, mica mi voglio far ammazzare. Tu devi capire che cosa sta accadendo qui, qual è l'humus nel quale le cose nascono, crescono e si sviluppano. Allora qui c'è un'intera città che si sta mobilitando, ti ripeto, hanno stampato per questa sera che c'è la Vabbè, ma non mi fai parlare con Carlo Freccero di televisione di quello che sta succedendo, invece di parlare di quello che farai, di quello che farai a Matrix. Sei un cinico, ti ha detto Carlo, ti morirai solo, morirai da solo. Vabbè, morirò da solo, può darsi, chi se ne frega. Mi ha detto Carlo prima e ti ha detto che non si possono fare due programmi insieme. Questo d'accordo, ma io sono eclettico. No, è che devi campare, giustamente devi campare, Carlo, pure questo deve campare. Che deve fare? C'ha due famiglie, un disastro totale. Beato te che manco una te ne sei fatta, Carlo. Io cosa vuoi? Sei stato io sono ai fusi come immobile, date il portare sospiro, ormai è finita. Un attimo solo che abbiamo la pubblicità, poi torniamo con Carlo Freccero che ci deve spiegare, secondo lui, se quello di Floris è stato davvero un flop oppure no. C'è stata una piccola ripresa, non è che noi seguiamo ogni giorno le imprese di Floris, non ce ne frega niente, però di televisione parliamo con Freccero, non è che parliamo di politica, di televisione, di altre cose. Ma siete una bella coppia comica, Non si possono fare due programmi alla volta, non è possibile. Con noi Carlo Freccero, un mito della televisione italiana, David Parenzo, il collegamento precario ma solido, non è una cosa in contraddizione, perché precario perché il telefono è sempre precario in movimento, solido perché fino adesso si sente, da Rione Traiano, dove banalità vorresti dire, però vabbè. Banalità per persone ciniche, spregiudicate e brutte, ma che fanno il successo di questa trasmissione. Ma no, vabbè, io volevo chiedere a Freccero... Volevo chiedere a Freccero una domanda molto semplice, non c'entra niente il cinismo, mica chiedo a Freccero di Napoli, anche se so che ha ragione, mi darebbe ragione sulla questione del Napoli che in parte è responsabile dell'uccisione di Davide, della morte di Davide, sì o no Carlo, dimmi la verità. Io devo dirvi una cosa, ragazzi, che sono un po' laterale perché sto lavorando come un pazzo per questo festival della fiction, fiction. Però è chiaro che in Napoli tutto quanto il clima che c'è, che non può che succedere questo, è come l'America, punto e basta. No, ma Saviano ha detto una stupidaggine su sta cosa di Ferguson, dai, che succede? Questo qua è chiaramente che non è vero, puoi capire che sia come... Esatto, non è possibile che vi sia... Però è che Napoli sia un caso a sé rispetto alle altre cose, che la periferia, quando tu entri in queste periferie, c'è qualcosa, una frattura totale, capisci proprio che è lì che capisci che il discorso della politica non c'entra più nulla, perché sono mondi veramente fuori. Però una parte della responsabilità della morte di questo ragazzo, che per carità è drammatica e tutto quello che volete, è dell'illegalità di Napoli, i tre in motorino senza casco eccetera eccetera, o no? O è una stupidaggine dirlo? Che ne so. Ma no, ma il problema non è tanto, scusami, i tre sul casco, è che tutto quanto, se tu ci sei mai stato veramente, è un altro mondo, è una situazione sospesa. Guarda, pensa a Gomorra, cioè è tutto così, è tutto. Non la possiamo capire. Ecco, io credo a cosa di queste su quelle. Purtroppo non l'ho seguita bene, per cui non ho gli elementi necessari. Però è una situazione che non c'entra nulla, non si può giudicare dall'esterno. Quando tu ci entri dentro, tutti quanti sono colpevoli, tutti sono innocenti. Senti Carlo, ho capito benissimo. La questione di Floris, secondo te, che succede? È un flop totale? No, non è un flop, perché l'idea è quella di allargare il telegiornale dalle 19.40 sino alle 21.15. E qui il problema si pone alla 7. Chi è che sarà il coordinatore di questo telegiornale? Con tre format differenti, questo qua è un problema, perché chiaramente ci sarà un coordinamento su questo fatto. Quello se la vedranno loro. Sono tre approfondimenti molto chiari. Ma capite, i risultati sono scarsi, però Carlo, scusa. Però attenzione, perché rispetto rispetto all'anno scorso, ieri ad esempio è salito, è un sì. risultato superiore. Cioè se Floris arriva al 4% e crea dalle 19.40 una media sino alle 21.15 che sia intorno al 6-7% a livello pubblicitario, tutto ciò funziona. È un successo. Bisogna, cioè il successo è se arriva al 4, deve arrivare al 4, deve arrivare al 4. A 4, sì. Deve arrivare al 4. Senti, ecco, il problema è che io mi pongo, e tu lo sai meglio di me, e se poi alle 21.10 quando riprende, che effetto c'è? È chiaro che a questo punto tu sai che il programma ha un'ipotesi dell'8%, sì. un'ipotesi del 7,5-8,5. Ecco, tutto ciò sarà possibile, è un problema proprio di base. Sarà, è cioè, una... ma se fa il 4-5 è un fallimento totale, se la media, che ne so, in due mesi è il 4-5, è un fallimento totale o no? È venuta 10 minuti fa, ragazzi. È possibile, perché chiaramente, però a livello di fascia, di pubblicità forse aumenta. Vabbè. Perché era tutto costretto. Bisogna, questa cosa la devi vedere solamente... Tu hai detto, negli ultimi giorni, che tra l'altro, cioè, alla fine Giannini non è che sia una... non è perdente in partenza. No, questo qua ve lo dico io. Cioè tutti quanti lo danno per detti. Vabbè, lasciamo perdere l'esploit di Benigni che conta poco. Ecco, eccetera. Secondo te conterà o no la cosa di Benigni? Beh, è chiaro che la prima puntata la conterà, prima puntata, sì. Naturalmente molto forte, anche se i promodi e le cose che lancia Crozza sul net sono straordinarie, perché è chiaro che il venerdì di Crozza, dove farà Tavecchio, eccetera, sì. è una bomba, è anche veramente... Ferrero, cioè, quello della Sampdoria, stupendo. Beh, è chiaro, ci sono, quindi... Cioè, Crozza è meglio di Benigni... Però anche lì lo vedi che si sposta dalla politica al costume. Esatto, sì, sì. Ragazzi, però scusami un attimo, Carlo, non è meglio Crozza di Benigni, diciamo la verità, sull'attualità, eccetera, meglio Crozza di Benigni. Sì, assolutamente. Cioè più attuale, più moderno, diciamo, rispetto a Benigni. Benigni farà in qualche modo la petizione papale, vuole dire appunto che questa cosa che della Rai c'era. Però attenzione che secondo me io non lo do così perdente come lo date tutti quanti voi il Giannini, perché si è deciso di fare questo, vuol dire che cioè, innanzitutto perché la casa stampata e come tu sai molto bene sempre è peggio che la TV generalista, cioè muore più velocemente, quindi in qualche modo lui ha scelto un medium che potrà in qualche modo essere comunque non è visto dal punto di vista anche così di televisione questa roba di Floris un po' vecchia come cosa, un po' vecchiotta, superata, cioè niente di nuovo, diciamo la verità. Tu non devi vederli come programma, vedilo veramente come investimento pubblicitario. Lì Cairo ci mette gli spot allo stesso prezzo che il telegiornale, ti prego. Tu se lavori su una TV, se lavori su una radio che è Radio 24, e vedilo un attimo sul punto di vista commerciale, non essere solamente, non vederle in attesa di qualità, è lì che è il problema. È chiaro che allarga, prima c'era il commissario Cordier che c'era, era un audience che non era inutilizzabile a livello e invece questo qua è un'altra cosa. Invece certo. Questo, ti prego, non guardare sempre, non essere un po' come l'Espresso, cerco di vedere invece in modo manageriale la cosa. All'attacco della zanzara da tutta Italia, amici miei, non ci arrendiamo qui quando diciamo che vabbè, poi riprenderemo, Parenzo è morto, che ha fatto? No, Parenzo è vivo e vuole dire ancora un attimo una cosa, stai che va tranquillo, perché voglio coinvolgere l'amico Freccero che ha vissuto a lungo in Francia. Allora, per capire Napoli bisogna citare un grande sociologo francese che parlò di territori perduti della Repubblica. Allora stai, vediamo anche un po' di qualche che noia, elemento. Che noia, territori che noia, perduti che noia, della Repubblica. Napoli e il racconto che si è sviluppato in questi giorni qua. Ma di cosa? Quale racconto? È morta una persona, si sta indagando, non c'è nessun racconto. Tu non capisci la rivolta che c'è qui. Ma quale rivolta? Ma perché la rivolta non c'è contro la camorra? Contro i camorristi? E invece c'è per l'uccisione di un ragazzo, per la morte di un ragazzo. Vergognati! Si vergognino quelli che scendono in piazza. Perché non scendono in piazza per la camorra? Contro la camorra ogni giorno, vergognatevi! Eccolo là, eccolo là, il banal grande. Ma che banal grande, vergogna, le manifestazioni grande. solo per l'uccisione di quello, per la morte del ragazzo, non per, contro la camorra, vergogna. Stai calmo, qui oggi, vergogna. Te la dico ancora più grossa, qui oggi lo Stato ha una grande scommessa. Vabbè, Parenzo, ma mai rotto le scatole con queste banalità? Nel corso del processo... Sei diventato insopportabile. La capacità di riscattarsi e di dimostrare attraverso il giusto processo per accertare... Carlo, gli vuoi dire che sta dicendo una montagna di banalità? Ti prego, Carlo, aiutami tu. No, non è così, dai, forza. Anche tu lo so benissimo che tu hai un punto di vista fuori da quella realtà lì. Ma pensa che la camorra, loro la vivono come vendetta verso lo Stato. Bravo. Appunto. E allora, che c'è da provarla una cosa del genere? Che c'è da condividerla? Si tratta di capire che oggi il volto dello Stato per loro lo sappiamo già, basta, lo sappiamo da 30 anni che è così. Il volto dello Stato per loro oggi è il volto di quel carabiniere che ha sparato e ha ucciso il Berlusconi. Ha ragione su Putin, cambiamo argomento. Sì, Carlo, ha ragione su Putin? Assolutamente, perché tutto ciò che è avvenuto in Crimea è già avvenuto nel Kosovo, in Macedonia, per cui trovo veramente tutto quanto insopportabile questa retorica contro Putin. Putin si può giudicare per quello che succede in Russia, sì, ma lì la situazione veramente è totalmente a ragione lui, cioè chiaramente la Crimea non può che essere appunto russa, putte basta, per cui veramente è inutile. E d'altra parte io devo dire che mi sorprende molto la politica estera di Obama, lo dimostra anche nei sondaggi dove ha fatto la CNN, ha dimostrato che la sua, che l'audience è favorevole appunto a Obama è del 28%. Adesso vuole fare la guerra contro l'ISIS, d'accordo, ma chi l'ha creato questo ISIS? Guarda che l'America, adesso ti faccio arrabbiare, usano sempre lo stesso format da quando è arrivata in Italia. Arriva per abbattere naturalmente il regime che trova disumano e si allia quel peggiore. In Italia si è alleato con la mafia, naturalmente, e lì si è alleato. Vi ricordate il telegiornale che dicevano che in Siria Assad mangiava i bambini piccoli? Sì, adesso invece si allea con Assad contro l'ISIS. Io credo che almeno Bush abbia una politica coerente, questo qua veramente dimostra di essere veramente incredibile. Io questo qua lo dico con tono veramente, ma cioè vengo... come lo dici, che cos'è? Penso un attimo cosa dice la Clinton, anche dice un attimo ma voi prendete, usate un attimo un po' di memoria storica, sì. 6 mesi fa sulla Siria le armi che erano questo è vero. Basta, e quindi veramente non è una cosa, cioè, ma al tribunale internazionale andrebbe portato Obama, andrebbe portato per capire, cioè, che lui abbia sbagliato, questo qua è vero assolutamente, come d'altra parte in Ucraina c'è stata una manipolazione fortissima, su questo è vero che loro hanno aiutato i nazisti, su questo qua è verissimo, ma basta leggere l'Ibens, un po' di cose, cioè io non credo, cioè Putin rispetto a Obama è un genio, stai dicendo? No, rispetto esattamente che c'è una guerra di posizione per quanto riguarda l'energia, è chiaro che ma come statista è un genio Putin rispetto a Obama secondo te? Ma io questo qua, per capire, non sono un esperto in politica, però credo che Putin lì su Kiev e l'Ucraina ha totalmente ragione. E le sanzioni dell'Europa sono una buffonata nei confronti totale. Su questo che sono d'accordo. Olanda voglia fare guerra a Putin, mi fa ridere veramente. Sì, assolutamente. Sì. Ti abbraccio, a presto. Ciao, grazie. Ciao, Carlo. Ah, aspetta una cosa, Carlo. Per risvegliare i talk, secondo te, che non so che stagione... Ma Berlusconi non dovrebbe partecipare e fare battaglia? E qui è tutto anestetizzato. Cioè, l'unico modo per salvare i talk, secondo me, è Berlusconi, o no? No, perché Berlusconi ha già trovato il suo cantore, la sua controfigura, che è Renzi, per cui anzi più moderno, per cui lascia fare. Renzi e Berlusconi, veramente perfetta la cosa. Sono una coppia formidabile. Sì, lui ormai fa il regista. Cioè la vera coppia di fatto, loro due, è Berlusconi e Renzi. Sì, chiaro. Ti abbraccio. Su questo qua è indubbio. Ciao. E a Parenzo preferisco il canguro. Ma che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei? coglioni cruciani e a Parenzo preferisco il canguro. Giovanna da Genova. Giovanna? Giovanna da Genova. Sì, buonasera, salve. Dimmi, dimmi cara. Allora, io volevo dirti che mi dispiace, ma per una volta sono contraria a Cruciani. Ma non c'è problema, figuriamoci. E adoro Mauro Corona. Sì. Quindi lo conosco personalmente. Uh-huh. E trovo che non è vero che l'uomo è sempre da difendere, perché che vuol dire? Ma è chiaro che l'uomo non è sempre da difendere, cioè, per esempio quello che ha spezzato la testa ai milanesi, no, che alle 6 del mattino andavano a vendere i giornali. Cioè mi sembra un discorso Vabbè, cioè, allora? E allora l'orsetta è molto meglio di quel signore che ha ammazzato tre persone o due, quante ne ha ammazzate. L'orsetta è molto meglio di quello che ha ammazzato due o tre persone, sì, d'accordo. Livio da Roma, quando c'è da scegliere tra un mostro e un animale, anch'io ho qualche dubbio. Dopodiché c'è l'uomo e c'è un animale. Ragazzi, di che stiamo parlando? Dai, Livio da Roma, non facciamo gli ipocriti, dai, non facciamo gli ipocriti. È evidente che i criminali sono dei mostri orrendi che nessuno di noi vorrebbe vedere e vorrebbe vedere spariti dalla faccia della terra, ma non possiamo fare il paragone con... Io dico che l'uomo viene sempre prima. Se c'è un pericolo per l'uomo, è l'uomo che deve essere salvato, non l'animale. Livio da Roma. Pronto, buonasera. Dimmi. Senti, io ho telefonato perché a volte con lei gioisco quando le parla che Napoli è colpevole per l'uccisione anche di quel ragazzo. Sì. E difende i carabinieri che lavorano. Io non ho difeso i carabinieri, io li difendo comunque sempre i carabinieri, ma non difendo quel carabiniere. Il modo di essere napoletani oggi, perché io a Napoli avrei veramente paura di viverci, e questo io veramente le do pienamente ragione. Però non sono d'accordo quando lei dice che prima degli animali vengono gli uomini. Vabbè, allora vengono prima gli animali. Dai, forza, forza, animalisti, scatenatevi, gente che vivete con gli animali, che vivete per gli animali, scatenatevi con le vostre cazzate, dai, forza. No, non sono cazzate, perché l'uomo senza animali non vive, Luciani. Vabbè, ha capito questo discorso? Se lei dice che hanno ucciso quell'animale, quella bestia, l'hanno uccisa volontariamente con la bestia. Quello è un altro discorso. Lei è convinto che l'abbiano uccisa volontariamente. Lei è convinto che l'abbiano uccisa volontariamente. Esatto, sì, io sono convinto, perché bene, c'è tanta ipocrisia. Qui praticamente siamo in un mondo che uccidiamo gli animali e facciamo i cementi come lo stadio sul Tevere lì a Tor di Valle. Va bene, grazie Livio. Franco da Milano. Franco, buonasera. Sì, ciao, dimmi. Volevo dire, tu all'inizio avevi detto ma è morto solo un animale, che non è un essere umano. No, ho detto in fondo è morto un animale. Animale. E ne muoiono tanti, tantissimi. Tantissimi. Cioè, no, non è un essere umano. Ne muoiono tantissimi esseri umani. Sì, certo. E allora, questo è razzismo. Tutto sommato, se noi pensiamo a come è nata la vita sulla Terra, dai batteri, dalla scimmia, noi siamo un essere vivente tale quale come gli animali. Ora io non capisco perché io devo essere a favore degli esseri umani, perché io sono un essere umano. Io per esempio ti faccio un esempio. Sì, fammi un esempio. Io ho un cane che sono molto affezionato. Se dovessero dire muore, scegli il gioco della torre, il cane o Cruciani? Dico Cruciani, così per dire, certo. Io dico Cruciani, perché se muore Cruciani non me ne frego un cazzo, se muore il mio cane muoio, piango per due settimane. Tipi da zanzara. Claudio da Milano. Eccomi, Cruciani. Dimmi. Mi senti? Sì. Tu hai figli? Certo che ho una figlia di 9 anni, perché? Se un giorno a 17 anni la tua figlia, sicuramente come tutti i ragazzi, può fare qualche cazzata, quella di andare anche in tre su un motorino, sì, e se un giorno te la sparassero e te la facessero secca, come è successo, che cazzate, ragioneresti nello stesso? Non lo so, guarda, nello stesso, quando ti ammazzano, quando ti ammazzano, puttana, caro amico, tu sei un vero figlio di Troia, meriteresti questo, capisci? Sì. Fare i delitti con la penna che con i motorini, pezzo di merda! Ti sei sfogato? Ricordatelo. Ti sei sfogato? Tutti vogliono dire il pezzo di merda a tutti! Ti sei sfogato? Maledetto bastardo! Ti sei sfogato? Ti sei sfogato? Hai capito? Ti sei sfogato? Hai capito bene quello che ti ho detto? Ti sei sfogato? Testa di maiale! Ti sei sfogato? Povero frustrato, povero frustrato. La morte di un figlio. Povero frustrato. Tu merita questo, bastardo. Povero frustrato, ti sei sfogato? Eh? No, frustrato sei te. Ma perché non vai? Ma stasera. Trasmissione di merda. Sì. Hai bisogno di usare questi mezzi. Sì. Vigliacchi contro la povera gente. Sei un vigliacco. Sì. La povera gente, quale sarebbe la povera gente? Ma quale sarebbe la povera gente? Che tu guadagni un giorno. Sì. Ti vengano tutti alla gola. E un giorno. Che paura. Brrr, come dice Renzi. Brrr. Una cazzata che fa un tuo figlio, sì. Io spero che te lo sparino. Sì. Hai capito? Bravo. Bastardo. E arriverà anche per te il giorno. Ma quale giorno? Ma quale giorno di cosa? Il giorno in cui dovrai soffrire. Magari è impazzito questo qua. Soffrire tuo figlio. Ma guarda che perché quello che dici su me. Una cazzata. Vabbè. Caro amico. Arrivederci mio. Claudio. Buonanotte. Ciao. Tipi da Zanzara. Antonio da Caserta, buonasera, questo era il matto di ieri sera, eh? Antonio da Caserta. Ciao Cruciani, buonasera. Dimmi Antonio. Senti, io ti volevo fare un invito, ti volevo invitare a casa mia. E perché dovrei venire a casa tua, caro? No, giusto per guardarti in faccia e poterti sputare direttamente in faccia. Sì, e perché? Telefonicamente, sai. Perché mi vuoi sputare in faccia, caro? Allora, perché. Tu lo sai che un sacco di napoletani che ho incontrato ieri sera, anche persone, come dire, piuttosto note a Napoli, sì, hanno detto che quando ho pronunciato delle frasi su Napoli che è responsabile in parte, non in toto, della morte di quel ragazzo Davide, mi hanno detto che guarda, in fondo hai ragione tu. Il poliziotto, il carabiniere, ma può darsi che abbia sbagliato. Io non parlo del carabiniere, non sono. E di che cosa? No, dimmi, perché mi dovresti sputare in faccia? Dimmi perché mi devi sputare in faccia. Sono le tue prese di posizione, la tua arroganza, il tuo modo di dire le cose. Vabbè, ma quello perché che il carabiniere è una vittima come una vittima il ragazzo. Sì. Io non, e io perché non mi vuoi sputare in faccia? Perché mi vuoi sputare in faccia? Questo modo tuo di essere, di esporre le cose. Non ti piace il modo di essere. I sentimenti delle persone. Io non ti augurerò mai che tua figlia faccia la stessa fine, perché io sono un padre, sì, e non mi permettere mai, ma però vuoi che tu provassi il dolore di un genitore. Ma che c'entra questo? Perché io me la sono presa con i genitori, con i genitori, ho detto. Tu hai voglia di, sei stato capace di pontificare su tutto e su tutti, ma tu non. Ma questo si fa in questa trasmissione, amico mio, Antonio. Ma fisicamente, dove cazzo sei stato? Ma che c'entra questo? Non hai bisogno della polizia. A casa tua, ma chi ci viene a casa tua? E vedrai le cose, non parlare. A casa tua, che sei la dimostrazione, quello che hai detto, sei la dimostrazione di quello che può succedere, la dimostrazione di quello che può succedere, capito? Quello che dici, Antonio, quello che stai, quello che, ecco, lo vedi? Ti accompagno io. Sì, vienimi a prendere qui, che ho il tuo telefono che comunico alla polizia, non ti preoccupare, ho il tuo numero di telefono che comunico alla polizia, stai tranquillo, la tua telefonata è la dimostrazione di quello che dico, è la dimostrazione di quello che dico, capito? È la dimostrazione di quello che dico. Per farti vedere la realtà, non quello che dici tu. Ma che c'entra? Io ho giudicato una cosa. Ma che pericolo pubblico? Ma falla finita, buffone. Non parlare per frasi fatte. Per frasi fatte, quali frasi fatte? Io detto semplicemente una cosa, ho detto scontata. Ma che cosa c'entra, Antonio? Cosa, sei bravo in radio, sai perché? Perché non ti si vede in faccia quando fai schifo. Vede, sei bello tu. Invece sei bello tu. Ma che c'entra questo? Ma che c'entra? Ma che c'entra, cretino? Vabbè, ma sei comprare un stai derapando, vai. Stai derapando, vai. Stai derapando, vai. Sei proprio un cretino. Stai derapando, stai derapando, Antonio. Ma dove? Ma dove per apprendere? Ma chi ti vuole? Ma chi te conosce? Ma che vuoi? Io parlo con te tranquillamente. Ma io parlo con te tranquillamente, non ho problemi. Ma io non ho problemi. Sei un poveraccio. Sì, sicuro. Cioè, ti parli della polizia perché ti ho detto qualcosa? Ti sei spaventato? E perché ti sei spaventato? Io spaventato. Io, quando ho parlato con la tua segreteria o con le persone che io ho detto lo voglio invitare a casa mia. Sì. Poi però non hai aggiunto per fare cosa, per sputarmi in faccia, poi che cosa hai detto, pure un'altra cosa. Ma tu sei donne che sono molto superiori allo sputare in faccia. Io faccio la radio, tu fai un'altra, tu fai l'ascoltatore, un'altra cosa, amico mio. Tu non sei dietro un microfono, sei il coraggio di dire. Ma che c'entra? Ma certo che ho il coraggio di dirlo. Ma qual è il problema? Guarda, non con la forza delle mie, perché chi minaccia sei tu. Ma che c'entra guardare in faccia le persone? Faccio la radio, amico mio, non faccio i comizi in piazza. Ma non faccio i comizi in piazza. E chi ha detto di no? Assolutamente. Ci sono moltissime persone per bene. Ci sono moltissime persone per bene. Non so se tu fai parte di queste persone. Non so se tu fai parte di queste persone, però. Delle persone per bene. Non lo so se ne fai parte tu. Non lo so, non lo so. Per quel, ma che c'entra il tuo numero? Ma chi lo vuole avere il tuo numero? Ma chi lo vuole avere? Lo sai perché le assicurazioni non fanno? Lo sai perché le assicurazioni? Lo sai perché le assicurazioni non fanno? Lo sai, vabbè, lascia perdere la coscienza. Sì, sì, sicuro. Lo sai perché le assicurazioni non fanno? Non lo fanno? Te lo spiego io. Ma se tu sei una prostituta come quelle che ti piacciono a te, alla fine ognuno vende quello che può. E tu vendi le cazzate che tutte le sere ci tu che vendi? Tu che vendi? Io non sono cazzi tuoi, non te lo che vendi? Che fai di mestiere? Che fai di mestiere? Sono cose che tu non puoi comprare. Ah, che fai di mestiere? Che fai di mestiere? Ma che fai di mestiere? Che fai di mestiere? Ah, non sono cazzi miei, no, Che fai di benestante? Sei un benestante. Che mestiere fai? Perciò le sere mi sento tutte le tue cazzate, mi metto sul divano e ti ascolto. Ti abbraccio fortissimo, ti abbraccio forte. A te no. Ciao, ti abbraccio, deficiente, ciao. Ma maledetto il giorno, io dico che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione. Sei ancora a casa? Lunedì prossimo, 15 settembre, che è anche il mio compleanno, David, ti voglio segnalare. Ne compi 40, no? 48, sì, 48. 48? Sì, 48, beh, io almeno lo ridimostro, tu invece sembra che c'hai 50 anni. Allora, abbiamo 10 anni di differenza. Ma tu ti rendi conto in che condizioni sei ridotto, sì. Allora, ma tu devi ringraziare Dio di essere arrivato a 48 quello, anni. Quello sicuro sempre, quello sicuro sempre. Che tu ne dimostri più di me, questa è un'altra certezza. Però io guarda, ti farei, finisci pure, ti farei anche parlare con un paio che sono qua e ho delle persone che avrebbero voglia di parlare, però temo. Dimmi, parla. Passa. No, finisci il tuo discorso, poi ti dico cosa. No, passa, così passa. Poi valutiamo. No, la valutiamo tutto in diretta, live, molto bello, così teniamo anche. Allora, il 15 settembre è non solo il mio compleanno, ma è anche il ventesimo, soprattutto direi, il ventesimo anniversario della morte. Ventesimo? Sì, mi sembra di sì. Ventesimo anniversario della morte di Moana Pozzi, un mito, una leggenda totale, assoluta. Un'icona che andrebbe ricordata ogni anno. Cosa diceva? Perché non è che faceva solamente sesso, non è che scopava nei film e basta Moana Pozzi, era una pensatrice fenomenale. Per esempio, quando diceva che i suoi spettacoli sono un atto politico, una protesta contro la mentalità borghese. Ma io ho sempre fatto politica con i miei spettacoli, da sempre, perché i miei spettacoli per me non sono mai stati soltanto un modo per esibirmi o per guadagnare denaro, ma è sempre stata una forma un po' di protesta contro la mentalità borghese della gente, che mi ha sempre infastidito fin da quando avevo 14 anni, quindi in memoria di quello ho continuato a portare avanti il mio discorso e facendo gli spettacoli e facendo i film. Bisogna abolire la censura e fare educazione sessuale. Moana Pozzi, a 20 anni dalla morte, lunedì si festeggia, cioè cade l'anniversario, è il giorno del mio compleanno. Io penso prima di tutto bisogna abolire questa stupidissima cosa della censura, questi articoli che personalmente mi sono beccata varie volte, 527 e 528 del codice penale sul comune senso del pudore, che sono veramente stupidi. Poi l'informazione sessuale, che è una cosa importantissima, perché la sessualità è l'energia vitale, la cosa che spinge le persone, in assoluto è la prima cosa. Le persone che hanno una sana educazione sessuale crescono meglio, lavorano meglio, vivono meglio, non sono aggressive, io di questo sono certa matematicamente. Cioè, ma ragazzi, ma con questo personale politico che c'è, con questa gente che c'è, ma una persona del genere, Moana Pozzi, per quello che diceva nel 1994, nel 1993, nel 92, nel 91, ma meriterebbe altro che... Io non voglio fare paragoni, caro Parenzo, con le ministre che abbiamo adesso, a livello di pensieri, a livello di... Ma diciamo la verità, c'è un abisso, diciamola tutta, cazzo, o no? Dillo anche tu. No, questo non lo dico. Lasciamo perdere. Però dai. Dico che indubbiamente era vera rivoluzione. Ma è un abisso. Io voglio chiedere a una persona. Però ti voglio dire questo. Sì, voglio chiederti questo. Cioè, una rubrica che dovremmo fare, voglio suggerirti di fare, è Cruciani da bambino, cioè l'infanzia di Cruciani. Ma perché? No, questo è molto interessante invece, io credo. Perché mi arrivano messaggi, suggerimenti e cose. Cioè l'infanzia di Cruciani. Prudentemente, quando quel simpatico ascoltatore parlava dell'orsacchiotto che ti avrebbero regalato da... Ecco, perché è interessante sapere da no, mamma ti compare ti diceva Giuseppino mio, vuoi il latte? No, ma non facevo così, un dai. Un po' di latte e un biscotto, volevo darti soltanto un biscotto. Mi fa schifo, cos'è che banale il biscotto? Dice, scusa, hai 2 anni, amore mio, il biscotto. Ecco, questo può essere interessante, cioè capire sentendo Cruciani da bambino. I fratelli, esattamente, sì, questo deve essere molto bello. Cruciani, allora, voglio però fare una provocazione a una persona con cui abbiamo combattuto, con cui litighiamo spesso, che sì, però è fatica, pur ragazzi, sempre un mito, ragazzi, questo bisogna ammetterlo, Bisogna ammetterlo. E così. Alba Parietti, ciao Alba. Ciao. Come stai? Bene, tu? Guarda, tra il casino che c'è qui e il casino che c'è lì, non ho capito praticamente niente, ma ho capito che hai detto delle cose molto intelligenti, tipo che sono un mito. No, sono un mito, ma solo questo ho detto su di te. Ho detto solo questo. Ho detto anche che Moana Pozzi, che il 15 settembre 20 anni dalla morte, sì, era un mito. E dico, tu che sei donna di sinistra, diceva delle cose all'epoca rivoluzionarie. Adesso la Bindi l'altro giorno ha detto una cosa, ha detto che queste ministre che abbiamo noi sono state scelte anche perché sono belle. Diciamo la verità, Alba. Sono belle? Perché sono belle. Ha ragione la Bindi o no? Ma non lo so, mi sembra un po'... Cioè, diciamo che la razza si è evoluta e anche la bellezza è cambiata, quindi ci sono un sacco di donne belle rispetto a una volta. Quindi mi sembra limitante dire che le donne che sono state scelte per fare le ministre sono state scelte in quanto belle. Onestamente la bellezza non ha fatto mai male in politica. Ma se fosse l'unica qualità sarebbe deleterio, ma mi sembra che sono tutte donne preparate, poi insomma voglio dire anche... Io ho detto prima che per quello che diceva Moana Pozzi nel 1994 era un genio rispetto a quello che si sente, alle banalità, io mi permetto di dire alle banalità che si sentono da qualche ministro. Ma la bellezza, devono smettere di pensare che sia un limite, è un qualcosa, è un regalo, è un dono divino sostanzialmente, per cui non vedo perché deve essere considerato un limite, è francamente abbastanza figo. Cioè la Bindi sbaglia, la Bindi sbaglia dici tu. Cazzata, dai, diciamocela tutta, sì, una cazzata, perché non è che le donne brutte sono per questo intelligenti e o le donne belle sono per questo sceme. È invidiosa, secondo te, della bellezza di queste donne? No, però è una battuta che potrei evitare, ecco, diciamocela tutta, non è bello detto da una donna nei confronti di altre donne, io questo genere di osservazione non le farei mai, ma per il rispetto della mia... Sì, specie, della mia razza che è già abbastanza massacrata dagli uomini, non c'è bisogno che ci mettano anche le donne. Massacrata, adesso non esagerare, no, come al solito. Viviamo in un mondo di sottocultura assolutamente misogena, quindi se ci si mettono anche le donne a massacrare le donne solo perché sono belle, a te Crociani perché sei bello, mica ti dicono niente, no? Ma che bello, ma che c'entra questo? Chi mi dicono niente? Chi dici? Gli uomini, dici, a volte come me ne dicono di tutti i colori, sì, altro anche che... tu, c'è anche un'invidia, tu. C'è un'invidia pazzesca. A te non ti vorrebbero come ministro in quanto così bello, quindi voglio dire, e allora voglio dire. Senti, ma lo sai Parenzo, adesso tu sei a Rione Traiano, capisco che hai... sarebbe, scusa, vuoi dire una cosa ad Alba, oltre a salutarla, sarebbe bellissimo, Tani ministro, che per i rapporti con il Parlamento farebbe un casino micidiale ogni giorno, chi frega, ma vaffanculo, ma non mi frega nulla, però voglio dire questo ad Alba, voglio dire questo, sono un po' arrabbiato con la mitica Albona Nazionale, perché lei... Albina Nazionale, perché Albona c'ha 50 anni. Sono arrabbiato con Alba perché almeno una volta alla settimana, è capitato soprattutto qualche mese fa, mi telefona e mi dice pronto, ciao Davide, dico ciao Alba, come stai? Ma infatti adesso Davide. Chiamo l'Alba perché lei vuole chiamare Davide Parente, voglio denunciarlo pubblicamente questa denunciamolo. Cosa. Denunciamolo. Si vede che ha il mio numero, David Parente, si vede che sul suo cellulare ha David Parente e poi Davide Parente, che chiaramente è simile. Esatto, allora cosa fa esatto. La signora che per mesi mi ha molestato, telefonava, io ero anche molto accogliente, dicevo oh, cara Alba, ciao come stai? Ah ciao Davide. Ah, ma chi sei? Dico, no, sono David Benz. Ah, no, ma scusami, volevo parlare con Parenti. Cioè, ecco, questo è quello che mi succede da mesi. Ma perché Parenti conta più di te? Adesso ho chiamato Parenti l'altro giorno, ho fatto confusione di nuovo, poi gli ho chiesto, sei quello bello? Lui mi ha detto sì, ho capito che avevo fatto la telefonata giusta. Senti, Alba, scusa un attimo, ma è vero che sei molto MILF tu? No, tu sei molto MILF. Come voglio io? Dire, io? Tu sei in assoluto... Se non fosse che viene definita così la donna mamma che ci vuole fare i ragazzini, così questa è la definizione, sei più, un po' più zia rispetto alla definizione di MILF, però sei un po' zia anche tu in fondo. Io sono MILF, non ci credo. Ma sì, appassionato anche tu, sei un altro di quelli appassionati di minorenni o giù di lì, di donne molto più giovani. Per ma sei impazzita, a me piacciono over 50 quasi. Davvero? Allora potremmo finalmente trovare un punto d'incontro. È vero che non abbiamo mai trombato, questo è vero, eh? Sì, bello da dire così in radio. Sì, ma guarda, voglio dire, non abbiamo mai fatto all'amore, vuoi che lo dica così? Non abbiamo mai. Non ho tue sufficienti referenze, però ti farei fare una gran bella figura poi in seguito, qualora tu, come dire, le tue prestazioni fossero all'altezza. Però insomma, sei parlato anche fin troppo di perché tu parli anche di prestazioni, Ragazzi, chi bello vuole apparire un poco deve soffrire, cioè se volete passare l'esame. Ma ti pare possibile che io vado con te e poi tu mi dici questo non è capace? Può capitare anche questo. Io lo so che tu non corri questo rischio, quindi non se ne fa niente. Ma sei terrorizzante, però lo sai che da questo punto di vista sei terrorizzante. Io ho qualche volta avuto la tentazione di però sei terrorizzante perché uno dice cavolo, ma qui poi vai con Alba Parieri, cioè ma adesso a prescindere dal fatto che magari tu non volevi, però e uno dice vai con Alba Parietti, tu ti rendi conto vai con Alba Parietti, cioè poi che succede quando stai lì? Faccio parte ormai, sai cosa mi ha detto un giorno Vittorio Sgarbi molto carinamente? Mi ha detto che oramai sono un monumento nazionale, per cui voglio dire come tale vado considerata, l'età non conta, io mi vanto della mia età, quindi qualsiasi età abbia, anche tra 10, 15 anni, 20 anni, se tu rischi quel che rischi, caro mio, per cui non ma è vero che le persone un po' si spaventano davanti ad Alba Parietti, dimmi la verità, degli uomini, un po' sì, dai. Come no, ma è quello che voglio, si deve spaventare, sennò che gusto c'è? Vabbè, ma si spaventano e poi non fanno niente, scusa Alba. Ma non è vero, e adesso non ti posso proprio spiegare tutto, perché perde un po' di mistero questa cosa, poi una volta ci troviamo, io te da sole ti spiego tutto, ti do un libretto di istruzioni per l'uso. Lo sai che in realtà tu non sei MILF, tu dici che io sono il MILF uomo, ma secondo me non è vero, perché ho comunque 48 anni, cioè rientrerei nel MILF, sono padre e va bene, tu sei madre, ma sei cougar tu, perché non hai capito, la cougar va dai 45 in su in Italia, è sessualmente molto carica, e tu sei carica sessualmente? Dipende dalle serate, dipende da chi. Allora, una mia amica mi ha scritto una cosa del genere: cougar va dai 45 in su, sessualmente carica, esplicitamente tra virgolette zoccole, sempre a caccia di solo esclusivamente di giovani. No, perché i giovani a te non piacciono. No, mi piacciono un po', ti l'ho già detto, con un po' di pancia, quindi dovresti marcirti un po' di più, farti venire un po' più di pancia, avere qualche annetto in più, non ci vuole tanto, 2-3 anni. Due, tre anni se ce la facciamo. Qualcosina, se ti massacri un po', se fai qualche notte in bianco, cioè, cazzate ne dici abbastanza, per cui va bene, bene come genere, rimani nel target, però dovresti marcirmi un po' di più per andar bene, perché a me piace l'uomo rovinato, vissuto, hai capito? Cioè, quello, se si vede con il maledetto, lì. Il maledetto, si vede non, con quelli. Voglio, non voglio fidanzarmi, hai capito? Per cui con quello rischio non lo corri. Beh, non lo corri perché dopo un po' dici, vabbè, questo qua però non mi posso fidanzare perché è un poveraccio, un disgraziato, cioè uno, no, un, ma che un vizioso, un vizioso. Ma ti sbagli, ma dai, non far finta di aver capito che quello è l'uomo che va per la maggiore, tu. No, però i ragazzini, no, i ragazzi giovani non mi piacciono. Ma è vero che ti mandano le foto porno su no, Facebook? Le foto non porno, mi mandano le foto, poi mi, sì, sì, mi mandano le foto. Beh, foto nudi? Mettere... Nudi col pisello da fuori? No. No, questo no, dai, nudi e basta, però voglio dire, però non sono interessato perché avendo, ma a parte che non ho mai scelto un uomo per la foto, sinceramente, anche se fosse Brad Pitt, mi affascina il cervello, quindi dovrebbero mandarmi foto, pezzi di cervello, non di, no, adesso sto scherzando, però adesso... Parenzo è sempre a Rione Traiano, sempre a Rione Traiano. Me lo so, ma lì no, deve rimanere, lì deve... mi sto ascoltando in questa augusta conversazione. Io adoro, nonostante no, tutto... Una conversazione veramente molto affascinante. No, molto, però l'ultima cosa, prima di chiudere con Alba, no, che poi no, non mi piacciono i ragazzini perché ho un figlio di 32 anni e troverei veramente di cattivo gusto. Vabbè, ma ogni tanto fatelo un ragazzino, piacciono, dai, su. No, e dai, no, che magari no, sessualmente è più attivo, Ma chi te l'ha detto? Te, guarda che, questo vuol dire che tu, quelli della tua età sono fuori sicuramente gara, meno, sicuramente, esatto, con uno di 30 anni carico, ovviamente, guarda che mi batte sicuro. Però un'ultima cosa te la volevo chiedere, quanto sei delusa da Renzi? Ma perché mi fai questa domanda? No. Hai cazzeggiato fino adesso. Lo so, però fare... io lo sai, vado da alto, basso, alto, basso. Io non sono delusa né da Renzi né da Berlusconi, perché fondamentalmente non ci ho mai creduto, veramente, fino in fondo, né nell'uno né nell'altro. Quindi non si può essere delusi da chi non... non come lo definiresti Renzi? Dimmi una cosa... Renzi è Renzi, quello che la un cazzaro, politica italiana... Un cazzaro. No, ma perché dire così? No, okay. È uno che fa bene il suo mestiere, si vende benissimo, è un prodotto dei nostri tempi, ma con quello che per me è la politica... È un'altra roba, è un'altra roba. Hai capito? E allora faccio un po' fatica ad accontentarmi di qualsiasi cosa sia meno. Ti abbraccio, ti abbraccio. Ciao, a presto. Abbraccio. Ciao, ciao. Ragazzi... Ci sentiamo domani se Parenzo sopravvive a Traiano, altrimenti chiudiamo la zanzara. Forza Parenzo a Traiano! Forza Matrix! Marchetta Matrix dall'amico Telese, ci vuole. Quando ci vuole la marchetta, ci vuole la marchetta. Forza! A domani. Sì, sì, buona vita a voi e state attenti che non vi addormentino anche voi. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Vota Cruciani. Radio 24. La passione si sente.